nuovo continente, che è così grande da essere onnipresente nella vita di ormai tutta la gente, che senza il suo aiuto proprio non se la sente, addirittura è proprio di non fare niente. L'America è la patria di cosa? Di ogni cazzo di trappola e di ogni roba insidiosa. E questo è l'America, è il vero ricettacolo di gente sbagliata come quella dello spettacolo. L'America è la patria dei vizi, ma la macchina stessa è anche lì a notizi. E ricordo quando ci volevo andare, non importava quei lunghi viaggi da affrontare, non c'era momento che non riuscivo a non pensare a quella merda di paese che volevo visitare. Ti dirai, ma cosa c'è di sbagliato? E che cazzo amico, non ci hai mai pensato? Persone che ci vivono e persone che ci vanno, spinte da un finto patriottismo che poi danno, l'esempio del mondo per la loro fermezza, quando poi il mondo a lamentarsi per la durezza. Intere comunità che vengono discriminate, intere razze che sono stereotipate, tante le famiglie che vengono emarginate e troppe le persone che sono disperate. Io vengo da sotto e ti posso assicurare che con la violenza ben poco puoi fermare, anzi addirittura ti continui ad aizzare verso le contro che non vogliono mollare. Questa cos'è una guerra a livello mondiale di un continente che vuole conquistare il globo intero, il mondo intero, con persone che hanno il denaro come unico pensiero. E per me il mondo così è sempre più nero quando vedo in TV il tipico americano fiero. Fuma sigarette, bevi Coca-Cola, prenditi di esempio e mangia da McDonald's. In questo mondo che già mi ha stufato, adesso assisto alla conquista di uno stato. Fuma sigarette, bevi Coca-Cola, prenditi di esempio e mangia da McDonald's. In questo mondo che già mi ha stufato, adesso assisto anche alla conquista di uno stato. Sì, e questo cos'è? Questo è il sogno americano, tutti falsi e stanno al gioco. Roba sera, mica roba da poco, e il brutto è che gli andiamo dietro. Va.